GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Bollette pazze da Enel sono state recapitate a migliaia di utenti, l'antitrust ha aperto un'istruttoria, mobilitate le associazioni dei consumatori. Medici di famiglia, le difficoltà delle aree decentrate in Val Tramontina, per 700 residenti funziona solo l'ambulatorio di Meduno. Turismo in frenata per il maltempo di queste settimane, nelle maggiori località di vacanza ci sono state partenze anticipate, disdette. E la nautica è in ritardo mentre la stagione si affaccia, il punto su un settore nevralgico del nostro artigianato. Lo sport calcio, Udinese terz'ultima in partenza per Bologna, dove domani cercherà punti fondamentali. Le 12:31 minuti e ancora buona giornata da Giampaolo Mauro e Maria Spezia. Nelle ultime settimane sono arrivate agli utenti molte bollette pazze con importi anche quadrupli rispetto al solito. L'antitrust ha aperto un'istruttoria per verificare eventuali scorrettezze da parte di Enel. Nel frattempo cosa possono fare i consumatori? Lo abbiamo chiesto a Giuseppe Di Martino, presidente di Adiconsum. Giuseppe De Martino di Adiconsum, quante sono le persone in regione colpite da queste maxi bollette di Enel? Allora, noi abbiamo ricevuto richieste via mail, via telefono, almeno qualche migliaio di persone ha chiesto informazioni. Di queste alcune centinaia sono passate ai nostri sportelli per essere in qualche modo assistite. Questo vale sia per l'energia elettrica che per il gas. È intervenuta l'antitrust con una multa all'azienda, cosa possono fare adesso i consumatori per tutelarsi e per recuperare parte dei soldi che sono stati spesi? Perché ricordiamo che il massimo che è stato concesso finora è la rateizzazione, che di fatto non cambia l'importo da pagare. I consumatori intanto dovrebbero rivolgersi alle associazioni dei consumatori che sono presenti sul territorio, siamo in tante, in Friuli, Venezia e Giulia, in qualche modo per essere assistiti. Noi stiamo tentando attraverso i nostri organismi di carattere nazionale di vedere e trovare una quadra, perché questa è stata una rapina. Come ci si fa ad accorgere che la bolletta è cresciuta in maniera enorme e non normale? Allora, innanzitutto stiamo parlando di numeri molto grossi, nel senso che noi abbiamo visto bollette che sono aumentate anche di 4-5 volte rispetto a quella che era il costo, diciamo, precedente. Questo nonostante il costo del gas sia addirittura diminuito rispetto all'anno precedente? Sì, sia per il gas che per l'energia elettrica nell'ultimo anno i costi all'ingrosso sono calati, ma io non ho visto che sono calate le bollette. Allora, una parte di questo aumento può essere dettato dal fatto che le accise sono tornate alla normalità. Però gran parte di questi aumenti sono dettati dal fatto che hanno fatto aumentare il costo dell'energia in modo spaziale. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Passiamo alla sanità, con la carenza di medici di famiglia. Delicata la situazione nelle aree più decentrate, dove sono centinaia i pazienti scoperti. Siamo andati a vedere qual è la situazione in Val Tramontina. E per me è un grande disagio, perché cammino poco. Non posso neanche andare con la corriera. E questo è il grande problema per me, perché a trovare qualche buona anima che mi porta giù. Per la signora Ederina, 84 anni, andare dal medico anche per una semplice ricetta è diventato un problema. Da un anno la Val Tramontina è senza medici di famiglia. I 700 residenti, molti anziani in condizioni di fragilità, devono rivolgersi all'ambulatorio sperimentale di assistenza primaria nel comune di Meduno, a 15 chilometri di distanza. Ci si arriva con una corriera o contando sulla aiuto di familiari e compaesani. Bisogna che telefoni prima per l'appuntamento, dopo se me lo danno al mattino ho difficoltà a dover andare giù perché io la macchina non ce l'ho. E dopo per ritornare indietro mi metto lì in piazza Meduno in attesa che arrivi la corriera, oppure arriva sempre qualche buon'anima che ci dà un passaggio, ci ritorna a portare al paese. I residenti hanno raccolto 300 firme attraverso una petizione depositata in consiglio regionale, con la quale chiedono un medico di medicina generale che presti servizio negli ambulatori di Tramonte di Sotto e Sopra. Che venga su almeno due volte per settimana, Tramonte di Sopra, Tramonte di Sotto, almeno per le ricette, oppure per quelli che sono veramente, che hanno bisogno del dottore per una visita. Ma sempre andare giù non si può, non si può. Tramonte di Sotto, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Sono stati definiti i nomi che compongono la lista dei candidati del Movimento 5 Stelle per la circoscrizione nord-est alle prossime elezioni europee dell'8 e 9 giugno. L'unica candidata proveniente dal Friuli Venezia Giulia è la triestina Martina Pluda, che è di formazione giuridica ed è specializzata nella tutela dei diritti degli animali, terza in lista. I temi dell'economia e del lavoro, conti in rosso per il gruppo Electrolux nel primo trimestre dell'anno. La perdita operativa sfiora i 62 milioni di euro e i ricavi sono in flessione del 3,7% a quota 2 miliardi e 660 milioni di euro. Il presidente amministratore delegato Jonas Samuelsson, che ha annunciato le dimissioni a fine anno, ha spiegato che il 2024 è cominciato come era finito l'anno precedente per effetto dell'inflazione elevata, dei tassi di interesse alti e delle tensioni geopolitiche. In Italia il gruppo è presente con 5 stabilimenti, tra cui quello di Porcia, che riaprirà lunedì dopo il ponte festivo. Un centinaio di addetti oggi è coperto dai contratti di solidarietà. A maggio è in programma un nuovo incontro sul loro futuro. E ora facciamo il punto sul turismo. La situazione meteo non ha giovato al flusso, soprattutto sul litorale, e dopo l'avvio molto favorevole ci sono state anche disdette e partenze anticipate dalle località di vacanza. Il tempo è incerto e il flusso di turisti si concentra soprattutto nelle città. A beneficiare di più del lungo ponte del 25 aprile e del 1 maggio è stata senza dubbio Trieste, che secondo le prime rilevazioni di Federalberghi ha fatto registrare diversi tutto esaurito. Lo confermano anche dall'ufficio turistico nel centro della città. I visitatori sono tanti e a volte fanno anche la fila per prendere mappe e informazioni. Le prospettive sono buone anche per i giorni intorno al 1 maggio. Una ottima performance, rileva Federalberghi, per le città d'arte. Oltre a Trieste, anche Gorizia vanta buoni risultati. Lo stesso però non si può dire per le località balneari e di montagna. Le aspettative che avevamo per questo weekend sono rimaste deluse, spiega Enrico Guerin, presidente di Federalberghi del Friuli Venezia Giulia. Il maltempo ha influito in maniera determinante sugli arrivi, soprattutto quelli dell'ultimo minuto. Erano numerose le prenotazioni, ma diverse sono state cancellate e altri visitatori hanno anticipato la partenza. In montagna la neve, aggiunge, ha complicato la situazione. Tra i turisti la prevalenza proviene da altre città italiane, ma ci sono anche stranieri, ungheresi, olandesi, tedeschi e austriaci, questi ultimi soprattutto a Grado, ma anche a Lignano, numerose le famiglie, ma tanti anche i gruppi che si sono mossi per eventi sportivi. La speranza, continua Guerin, è di fare migliori risultati nel fine settimana del 1 maggio. Le previsioni al momento non appaiono molto incoraggianti, ma si conta su un maggiore afflusso di turisti stranieri. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Ripercussioni per il maltempo anche nel settore della nautica, che si prepara alla nuova stagione. Nel prossimo servizio facciamo il punto su un settore nevralgico del nostro artigianato. Piccoli e grandi diportisti nautici al lavoro. L'ostacolo sono le condizioni del tempo, che non permettono i lavori più consueti di rimessaggio. Così nei cantieri, anche se di 15-20 barche al giorno la media giornaliera di trasferimento dall'acqua alle invasature, si crea un po' di ingorgo e il varo stagionale è ritardato di quasi un mese. Michele Brusca, direttore cantiere nautico. Se si tratta di una barca piccola, una settimana, 10 giorni, 15 giorni la fanno, insomma, perché si tratta di fare la carena, il tagliando del motore, dargli una lucidata e finisce il problema, insomma. Nel Golfo di Trieste abbiamo una nautica che non è una nautica ricca come può essere nel Tirreno, quindi specialmente in questi momenti un po' di crisi, diciamo, i proprietari tendono a farsi i lavori da soli. Parliamo di un settore, quello della nautica da diporto, che conta 233 imprese artigiane in Friuli Venezia Giulia, dove lavorano 515 addetti. Il numero maggiore di imprese della nautica si trova in provincia di Udine, 128, poi Gorizia e Trieste, una cinquantina a testa e 7 a Pordenone. In crescita quelle di riparazione e manutenzione, che negli ultimi 15 anni sono passate da 29 a 171. Il crollo della domanda di nuove imbarcazioni, che sfiora il 90%, ha aperto una forbice importante tra le attività artigiane di costruzione e quelle di riparazione, anche perché è un mercato trasformato quello della nautica, dove anche per barche di valore molto alto costa molto meno acquistare un usato e con la manutenzione portarle a nuovo. Ariano Medeot, Confartigianato Gorizia. Il comparto della nautica di Porto è un comparto sano, che è alla portata anche delle famiglie, perché dietro formalmente c'è una passione, una grande passione per il mare. Siamo a Monfalcone e qui viene vissuta da più di 100 anni. Il discorso dell'imbarcazione, ovviamente chi ce l'ha la personalizza, come giusto che sia, e la tratta come un piccolo gioiello. Monfalcone, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. In Friuli Venezia Giulia e Trieste a guidare la classifica della qualità del mercato del lavoro, in cui è presentato l'andamento dell'occupazione dal 2019 al 2023. I dati arrivano dall'Associazione Artigiani e Piccole e Medie Imprese, CGA di Mestre, a partire dal rapporto Benessere Ecosostenibile BES dell'Istat, ed evidenziano come nel capoluogo giuliano si registrano 3.400 occupati in più rispetto all'ultimo anno pre-Covid, con un aumento dunque del 3,5%. La crescita per Trieste è significativa soprattutto in relazione al solo 2023, in cui si contano 1.500 lavoratori in più, cifra che consente alla città di precedere Udine in classifica, dove l'anno scorso non si riscontrano aumenti occupazionali, nonostante un analogo andamento positivo del 3,5% a partire dal 2019. Diversa la situazione di Gorizia, che nel 2023 ha visto diminuire dell'1% il numero di chi ha un lavoro, ma negli ultimi 4 anni può ancora conteggiare una crescita di 1 migliaio di attivi, mentre Pordenone calcola solo segni in meno e una perdita di circa 500 occupati a fronte del meno 3%. A livello regionale si contano dunque 520.000 persone attive a fine 2023 rispetto alle 508.000 di 4 anni prima, e un aumento del 2,3%. 12:42, diamo uno sguardo alla situazione del tempo. Cielo da variabile a nuvoloso sul Friuli Venezia Giulia. Le temperature: a Trieste 15,5 gradi, a Pordenone 14,5, 11,5 gradi a Gorizia, a Udine 12,5. Nell'area montana a Tolmezzo abbiamo 12 gradi, a Tarvisio 10,5, a Sappada 4,5, a Forni di Sopra 9,5, sul Piancavallo 5,5 e sul Lussari 1,5 gradi, sullo Zoncolan 1 grado. Tornando sulla costa, Lignano 12,11. Le previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per oggi pomeriggio: nuvolosità variabile con qualche pioggia e qualche rovescio, ma anche aree soleggiate. Quota neve a 1500 metri circa. Per domani su pianura costa cielo in genere poco nuvoloso, sui monti cielo variabile in genere con più sole nel Tarvisiano e più nubi su Prealpi e Carnia, ma con tendenza al prevalere del bel tempo in giornata. Le temperature saranno in aumento. A Trieste è dedicata alle famiglie la passeggiata tra arte e scienza nel parco di Miramare, in collaborazione tra WWF e Area Marina Protetta di Miramare e il Museo Storico, in programma dalle 15. Proporrà l'osservazione e la riproduzione su carta dei paesaggi marini e terrestri, oltre alla spiegazione degli ambienti naturalistici del luogo. Questa mattina è stata presentata a Staranzano la seconda edizione del Festival dell'Acqua, manifestazione in calendario da giovedì 16 a domenica 19 maggio. Una trentina gli appuntamenti inclusi nel programma, tra cui quello con l'attore Marco Paolini, che dialogherà con la climatologa Elisa Palazzi, e quello con il ricercatore Giulio Boccaletti del Centro Euro Mediterraneo per i cambiamenti climatici. A Roberta Sodomaco, coordinatrice del programma, abbiamo chiesto una presentazione della rassegna. Il festival conferma quella che è la sua cifra caratteristica. È certamente una manifestazione di divulgazione scientifica che ha per focus l'acqua, ma il senso di questa manifestazione, unica nel suo genere direi in Italia, è la contaminazione dei linguaggi scientifici con quelli dell'arte, delle forme di espressione artistica, perché se vogliamo stimolare comportamenti virtuosi, sostenibili in relazione all'acqua, che è un bene universale, un diritto dell'umanità, però assolutamente in via di rarefazione, allora dobbiamo parlare non soltanto al cervello delle persone ma anche al cuore. È chiaro che quindi nel festival si alterneranno certamente talk di divulgazione scientifica con alcune fra le personalità più prestigiose del mondo della divulgazione in relazione all'acqua, penso a Giulio Boccaletti, direttore del Centro Euro Mediterraneo per i cambiamenti climatici, ma anche esponenti del mondo dello spettacolo dal vivo, penso a Marco Paolini, che viene al festival insieme alla Fabbrica del Mondo, il suo progetto fondato insieme a Telmo Pievani proprio per salvare il nostro pianeta. Marco Paolini sarà il protagonista di una conversazione a due voci con la climatologa Elisa Palazzi. E poi, ripeto, performance, talk, laboratori e attività didattiche per le scuole, visite guidate ed esperienze, per esempio la mostra archeoplastica che ci dimostra come drammaticamente la plastica perseveri, sia immortale, duri nei nostri mari per decenni e decenni. Archeoplastica è un museo virtuale e non dei rifiuti spiaggiati che ci insegna, con un messaggio di forte valenza simbolica ed estremamente suggestiva, che dobbiamo in qualche modo, visto che la plastica non la possiamo eliminare, imparare ad usarla responsabilmente. Il mondo agricolo ieri e oggi, la mostra fotografica in cui sono allestite immagini che spaziano nel tempo dalla società contadina degli anni 20 fino ai giorni nostri, in cui è ospitata anche una sezione dedicata alle foto dei friulani Elio Ciol e Fabrizio Zanfagnini. È stata inaugurata a Fagagna all'Ecomuseo Il Cavalier. L'esposizione sarà accessibile fino al 23 giugno nel fine settimana, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18. A Venzone, nel Palazzo Comunale, si presenta alle 18 il progetto Mani Creative, che si concretizzerà a luglio con una mostra a Palazzo Orgnani Martina di merletti e tessuti fatti a mano e ispirati alle ceramiche dell'artista carnica Amabile Dassi. L'iniziativa è organizzata dall'Università delle Terze Età della Carnia e del Gemonese. 12:46, la pagina degli spettacoli. A 80 anni dalla scomparsa, il comune di Pasian di Prato ricorda Elio Morpurgo, che fu sindaco di Udine, parlamentare e sottosegretario di Stato. Ebreo, aderì al fascismo e fu poi eliminato dai nazifascisti nel 1944. All'Auditorium Venier va in scena il testo di Valerio Marchi, che lo stesso autore ha adattato per il palcoscenico. La musica, la ventenne pianista malese Magdalene Ho suona a Trieste in Sala Luttazzi per il Festival del Trio organizzato dalla Chamber Music. L'appuntamento è alle 18. A Pordenone prosegue il Festival Segovia stasera all'ex convento di San Francesco alle 20:45. Sul palco il solo duo, ovvero Matteo Mela e Lorenzo Micheli. È stato annullato ad Artegna l'ultimo appuntamento della stagione dell'ERT, Every Brilliant Thing, in programma questa sera al Teatro Lavaroni per indisposizione del protagonista Filippo Nigro. Quello prodotto dal CSS, diretto da Fabrizio Arcuri, sarebbe già stato un recupero dello spettacolo originariamente programmato per il 24 febbraio. Non sono previsti recuperi in questa stagione, nei prossimi giorni saranno comunicate le modalità di rimborso per gli abbonati e per coloro che hanno acquistato il biglietto. Si intitola A Mesure, Handle with Care, lo spettacolo con l'artista circense Elena Damasio, che è incentrato sulle forme dell'amore, che si avvale della ruota CIR, grande cerchio metallico con cui si realizzano acrobazie. Appuntamento a Codroipo, nello spazio dell'Ottagono di Via Marinelli, alle 18. 5 scuole di danza di Udine, Spilimbergo e Trieste si esibiscono a Città Fiera in uno spettacolo che sarà presentato dal ballerino e coreografo Garrison Rochelle. Passi diversi, questo è il titolo, si aprirà alle 15:30 nella Piazza Show Rondò. Passiamo allo sport, iniziando dal calcio nella Serie A, Udinese verso Bologna, dove giocherà domani pomeriggio contro una delle squadre più in forma del campionato. L'allenamento di rifinitura ha riconsegnato all'allenatore Cannavaro la formazione proposta contro la Roma, compreso Perez recuperato dopo la botta alla testa. Ieri nell'anticipo il Frosinone ha battuto la Salernitana, Campani già matematicamente retrocessi, mentre il Frosinone ha preso un vantaggio di 3 punti proprio sull'Udinese, relegandola al terzultimo posto da sola. Oggi si giocano Lecce Monza e Lazio Verona. Pallanuoto in A1 femminile, ultima giornata della stagione regolare, con Trieste impegnata nella piscina genovese della Locatelli. Per approdare alle semifinali scudetto, le alabardate devono vincere e sperare che Rapallo non faccia altrettanto a Ostia contro la SIS Roma. Entrambe le gare si giocano alle 15. E nella pallamano maschile, Trieste gioca sul campo trentino di Lavis contro il Pressano, da difendere 2 punti di vantaggio in classifica che potrebbero essere preziosi in chiave play-out. Calcio giovanile, il torneo delle nazioni che si disputa sui campi della regione in Slovenia e in Austria. dopo l'amarezza per l'esclusione già certa dalle semifinali, mostra un'Italia under 15 in cerca di un risultato positivo nell'ultimo incontro del girone eliminatorio alle 18 a Cervignano contro la Romania, che è ancora in corsa, mentre è già qualificata la Corea. Tra le altre partite di oggi, da segnalare Macedonia Eire a Tor Viscosa alle 18, in programma anche Repubblica Ceca Slovenia a Vipoge alle 17 e Norvegia-Austria a Cottschalk-Mauthen alle 17. Lunedì sono in programma le semifinali. Non perdete domattina l'appuntamento con le nostre rubriche alla radio. Subito dopo la prima edizione del giornale radio andrà in onda Vita nei Campi. Sentiamo di cosa si occuperà. Vita nei Campi, il settimanale radiofonico di agricoltura della nostra redazione, non della domenica alle 8.50 su Radio 1 Rai. Domani in apertura temi e problemi della direttiva nitrati che potrebbero avere nuovi correttivi. A seguire la storia di Angelo Floramo racconta delle cure riservate alle galline e all'importanza che avevano nelle case contadine. Forse non tutti sanno che l'uva da tavola si può coltivare con soddisfazione anche alle nostre latitudini. E ancora, nella rubrica dei sommelier, prima puntata di una serie dedicata alla birra, per lo spazio che dedichiamo alle conserve dei cibi di Scena e Piselli, primi a finire in scatola, e il Bidens ferruifolia, pianta dal fiore generosissima e grande amica di api e farfalle. In conclusione, andamento dei mercati agricoli, le previsioni del tempo e il proverbio friulano. Appuntamento domani alle 8.50 su Radio 1 Rai con Vita nei Campi. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. E in televisione su Rai 3 andrà in onda la nuova puntata di Est Ovest. Ecco il sommario. Fino al 1990 l'Ungheria non produceva automobili, ora con le auto elettriche sta per superare l'Italia. La Valle dell'Idrogeno, Slovenia, Croazia e Friuli Venezia Giulia insieme per produrre idrogeno verde. Verso le elezioni europee, le posizioni dei partiti sulla guerra in Ucraina e sull'allargamento dell'Unione. La favola sportiva di Joanna Asia Wołosz, la pallavolista polacca regina del volley italiano e mondiale. Socura fa i microfoni di Est Ovest, la censura si combatte solo con il coraggio degli artisti. Tutto questo a Est Ovest, domenica alle 11.05 minuti su Rai 3. Prima di chiudere un comunicato sindacale. Lusigrai sostiene lo sciopero dei giornalisti di Radio Rai. Il giornale Radio Rai è emozione, quella dei grandi appuntamenti sportivi. Il giornale Radio Rai è storia, quella dei grandi eventi politici e non solo. Il giornale Radio Rai è racconto, insomma è servizio pubblico. Eppure l'azienda vuole togliere alla testata due parti fondamentali, la redazione sportiva e GR Parlamento. Per questo oggi i giornalisti del giornale Radio Rai scioperano, è la seconda volta in un mese, perché non hanno ricevuto alcuna risposta dai vertici della RAI. Un silenzio inaccettabile, così come intollerabile il tentativo di ridurre la RAI a megafono del governo, l'assenza dal piano industriale di un progetto per l'informazione RAI che garantisca strumenti e risorse. Per questo Usigrai è accanto ai giornalisti della radio e proclama per il 6 maggio uno sciopero dei giornalisti di tutte le altre testate. Questa è la replica dell'azienda. La RAI non intende in alcun modo depotenziare l'offerta radiofonica sportiva e parlamentare, ma al contrario vuole sfruttare al meglio le sinergie e una nuova organizzazione del lavoro per un servizio pubblico ancora più attento agli ascoltatori radio, proprio in una prospettiva di miglioramento dell'offerta informativa. Tutto questo rientra nel nuovo piano industriale approvato dal Consiglio di Amministrazione, a cui RAI, con tutte le sue strutture, sta lavorando con l'obiettivo di trasformare questa azienda in una moderna digital media company, patrimonio di tutti gli italiani capaci di esprimere oggi più che mai i valori del pluralismo e della libertà di espressione. E aggiungere opinioni, idee, punti di vista vuol dire essere ancora più pluralisti di come la RAI è stata in passato. In merito poi all'abolizione del premio di produzione, che l'Usigrai aveva indicato tra i punti per la proclamazione dello sciopero, non si tratta di abolizione, ma si adeguano ai giornalisti gli stessi meccanismi già in vigore per tutti gli altri dipendenti RAI. È tutto per questa edizione, che è stata redatta e condotta da Maria Spezia e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Bruno Montevecchi e Paolo Cassano, ha collaborato in redazione Cristina Polselli. Le 12.54 in questo istante, prossima edizione oggi che è sabato alle 14.30. Grazie per il vostro ascolto e buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.